Rock FM. Mariposa, corso Lodi numero 1 a Milano, ti invita all'ascolto di serata, siete su Rock FM, la voce di Marco Gravelli, l'appuntamento di Up & Davy, 60 minuti dedicati alle novità. Siamo praticamente in dirittura d'arrivo, questa è la penultima settimana riproposta su Rock FM di Up & Davy dalle 20 alle 21. Ricordo, questo venerdì a partire dalla mezzanotte, Marco Gravelli qua presente, ci sarà Max Deriu, ci sarà anche Witching Hour, vi daremo filo da torcere per ben 6 ore, dallo scoccare della mezzanotte di venerdì sino alle 6 del mattino di sabato, con uno speciale Up & Davy Nightmare, con hard rock, sleazy rock, glam rock, heavy metal, power metal e death black metal. Tutto questo verrà contemplato in queste 6 ore. Naturalmente sono poche per tutti questi generi musicali, lo sappiamo, ma più di così non possiamo, e quindi spero che molti di voi possano essere all'ascolto in quella nottata. Ringrazio, e sarà anche presente Simone Scavo, il mio personale autore, ci sarà anche lui, avrà voce in capitolo in quella nottata, ma intanto ha preparato la tracklist di questa sera, che ci permette di partire con una band australiana che personalmente ho scoperto qui in Italia, tengo a sottolinearlo, prima di tutti, anche perché l'album non è ancora pubblicato in Italia, arriverà perché loro saranno presenti al Gods of Metal, quindi prima o poi verrà pubblicato tramite la Roadrunner Records questo album nuovo, diciamo che è il primo, anche se in Australia ne hanno pubblicato ed è uscito solo in Australia un altro precedentemente. Loro propongono un hard rock molto molto molto simile agli AC/DC. Noi quest'album l'abbiamo presentato tra dicembre e gennaio in anteprima, verrà pubblicato il 30 di maggio ed è il lavoro intitolato Running Wild, già pubblicato in patria, pensate, nel mese di giugno dello scorso anno. Hanno gli evalso 2 nomination agli Awards australiani come miglior album rock e come band rivelazione dell'anno, e da segnalare che alle spalle hanno, come vi dicevo, una autoproduzione dal titolo Ready to Rock, pubblicato nel 2004 da un'etichetta indipendente. La band suonerà, anche questo ve l'avevo detto, però non la data, venerdì 27 giugno al Gods of Metal, che si terrà in quel di Bologna. Sono, non sono simili agli AC/DC? Ascoltate un po', questa è Girls in Black, Airborne. We'll be right back. preparate i vostri soldini, se sentite la mancanza degli AC/DC, questo album degli australiani Airborne io ve lo consiglio caldamente. Ricorda proprio gli AC/DC anni 70 e chi se ne frega se sono un po' uguali, ma qui c'è tanta carica, tanta energia, tanto rock and roll. Airborne li vedrete poi dal vivo il 27 di giugno a Bologna al Gods of Metal e il venerdì 30 maggio sarà nei negozi anche in Italia questo Running Wild, dal quale vi ho proposto questa Girls in Black. Passiamo alla prossima, seconda band, si chiamano Paramise, a 2 anni di distanza dal precedente, anche in questo caso 30 di maggio la data di pubblicazione del terzo album intitolato Immortal. Loro sono una band metà danese metà americana, composta addirittura da 6 elementi. Il leader del gruppo è il chitarrista danese Michael Kemier, che dopo aver abbandonato il precedente gruppo nel 2001 decise di crearne uno dedicato al melodic power metal. Dopo aver composto diverse canzoni completa la line up con l'ingresso di un batterista e un bassista, entrambi danesi, un tastierista americano conosciuto tramite internet. Come studi di registrazione vengono scelti i famosi Hansen Studios di Jacob Hansen, il quale si è occupato anche della produzione. Le registrazioni, ancora senza cantante, destarono l'interesse della Intromental, che gli fece ottenere così un contratto con la Massacre Records. E grazie all'etichetta che è entrato in line-up il cantante Lance King, con il quale hanno inciso l'album di debutto del 2004 e il successivo lavoro. Ed entrambi avevano ricevuto buone recensioni. Alla fine del 2006 c'è da segnalare il licenziamento proprio del cantante King e la sua sostituzione niente meno che con Matthew Barlow degli Iced Earth. Il risultato è questo Immortal, di prossima pubblicazione a cura dell'etichetta spagnola Locomotive Records, con la quale hanno stipulato un contratto a fine marzo. Si compone di 9 brani più un intro e il sound è decisamente più potente rispetto ai 2 precedenti lavori. Allora, il loro nome lo ricordo, Paramise, l'album Immortal, questa è Beautiful Death. terzo lavoro dal titolo Immortal. Il brano era A Beautiful Death per i Paramise, che vi abbiamo proposto, album che verrà pubblicato il 30 di maggio. Già uscito da un paio di settimane invece il lavoro solista del bravo cantante 39enne americano dei Nevermore, cioè Warren Dane, vocalista che ha cominciato nei Sanctuary, che poi si sono sciolti per dar vita ai Nevermore, dei quali da sempre ne è il vocalist. Questo album, Prizes to the War Machine, si compone di 11 brani, due sono cover, Patterns di Paul Simon e Lucrezia Mar Reflection dei Sister of Mercy. L'album è stato mixato dall'ex chitarrista dei Soilwork, Peter Vickers, che ha contribuito alla stesura delle tracce e che aveva conosciuto Warren nel 2001. È grazie a questo incontro che i due musicisti hanno dato così il via, è nata questa idea della realizzazione di questo album. Per le parti di chitarra c'è l'ex chitarrista degli Hymns, cioè Matt Wicklund. Presenti come special guest anche James Murphy, Jeff Loomis dei Nevermore e Chris Broderick dei Jag Panzer. Il pezzo che vi propongo, compare James Murphy come special guest, si intitola The Day the Reds Went to War, dall'album solista di Warren Dane. Went to War, Warren Dane, da questo suo album da solista. Siete all'ascolto di Arden Devi nello spazio consueto serale dalle ore 20 alle ore 21. È la sua penultima settimana di messa in onda. Ricordo lo special di venerdì notte. Dopo Warren Dane come ospite c'era James Murphy in questo brano. Andiamo ad un album che sta piacendo a tutti, un bel ritorno per la formazione inglese dei Def Leppard, un album pubblicato anche in Italia naturalmente, si intitola Songs from the Sparkle Lounge. Il pezzo che andiamo a proporvi quest'oggi da questo nuovo lavoro per i Def Leppard si intitola Tomorrow. melodici ma bravi come sempre, bravi. Def Leppard dal loro nuovo album Songs from the Sparkle Lounge, queste erano le note di Tomorrow. Andiamo in Grecia, magari molti ci andranno per vacanze varie, però sappiate che c'è anche una buona scena metal in Grecia. Loro si chiamano Battle Roar, hanno già pubblicato diversi album, il frontman è l'italiano comunque, Marco Concorreggi, scusate, questo è appunto il nome del loro frontman. Propongono epic metal e questo è il loro terzo album, si intitola To Death and Beyond. Il gruppo, ricordiamo, è composto da 5 elementi nati nel 2000. Hanno già pubblicato altri due album, più precisamente l'omonimo d'esordio del 2003, che li ha sin da subito imposti all'attenzione di pubblico e critica, seguito due anni dopo da Age of Chaos. Questo nuovo lavoro viene pubblicato da un'etichetta nostrana di Roma, cioè la Cruz del Sur, consigliato ampiamente agli amanti dell'epic metal. Si intitola To Death and Beyond, il pezzo è Metal from Hellas, Battle Roar. Nuovo terzo album per la formazione greca dei Battle Roar, epic metal con, ripeto, Marco Concorreggi alla voce, italianissimo, l'unico elemento italiano che ben si destreggia comunque con queste sonorità e con quest'album. Andiamo a chiudere la prima parte di questa sera di Arden Devi con i Million, una band che pubblicherà, e quindi ve lo presento in anteprima, il 26 di maggio questo loro album. ed è il sesto per questa hard rock band svedese. Esattamente, arrivano da Göteborg, sono composti da cinque elementi. Magari non è un gruppo molto noto, la band nasce nel 1989, creata dal bassista e compositore BJ Landby. Il loro esordio arriva nel 92, un periodo non proprio favorevole, possiamo dire, per le pubblicazioni di questi generi di musica, ma si segnalarono per l'ingresso al numero 30 nelle classifiche di vendita giapponesi. Il secondo album gli valse date di spalla a Magnum e Nazareth. Nel 1999 hanno anche cambiato cantante, che ha esordito nell'album Detonator del 2001. Arriviamo ai tempi più recenti, quando lo scorso settembre hanno stipulato un contratto con l'etichetta Metal Heaven, che ne pubblica questo nuovo Thrill the Chase. Ci sono ben 12 brani registrati tra novembre e gennaio dello scorso anno. Quindi oggi noi andiamo a proporre da questo lavoro dei Million la traccia dal titolo Lonely in the Crowded Room, e a chiudere anche la prima parte di Hard and Heavy di questa sera.

questa band svedese. Iniziamo la seconda parte di Hard and Heavy di questa sera. Me li ricordo bene perché sono nati negli anni 80. Loro si chiamano Overdrive e dopo essersi ripresentati un paio di anni fa con un EP che segnalava la loro reunion dopo ben 11 anni dallo scioglimento, arrivano con un vero e proprio nuovo album dal titolo Let the Metal Do the Talking. Questi svedesi propongono del buon heavy metal. Reunion vede la lineup classica eccetto il cantante. Il nuovo vocalista è Per Carson, proveniente dai connazionali Unchained. Come vi dicevo, sono nati negli anni 80 dalla fusione di due band locali, gli Ocean e i Paradise. All'inizio proponevano cover dei Riot e di Def Leppard. Poi incisero un singolo e cominciarono quindi a proporre brani propri. Dopo la partecipazione ad una compilation, arrivano nel 1983 alla pubblicazione dell'album Metal Attack. Nell'84 arriva Sword and Axis. Si sciolgono nell'85, si riformano nel 1997 in occasione di una data dal vivo. Nel 2001 esce un album live, sino al 2003 quando si sono ufficialmente riformati. Ed ora è arrivato questo nuovo album. Ripeto, loro si chiamano Overdrive. Altra band storica che si sono sciolti un paio di volte durante la loro storia, arrivano dal Canada, gruppo tra i più importanti del thrash metal, si chiamano Exciter. Questo nuovo album si intitola Thrash Speed Burn. Questo nuovo album presenta praticamente il nuovo cantante, che è Kenny Winter. Altro ingresso è stato un secondo chitarrista, cioè Rob Cohen, che si affianca allo storico fondatore John Ritchie. Questo nuovo lavoro presenta 10 brani. Andiamo ad ascoltare il motivo che apre l'album, cioè Massacre Mountain per gli Exciter. ascoltato un estratto dal nuovo album degli Exciter. Arriviamo anche per questa sera all'appuntamento con le Metal News e partiamo con i portoghesi Moonspell. Si avvicina la data di pubblicazione del nuovo album per questa gothic metal band portoghese. Il titolo sarà Night Eternal. Di supporto è stato realizzato il video del singolo Scorpion Flower, che si presenta ricco di effetti al computer e molto gotico nei colori ed ambientazioni. Il video è stato registrato a Belgrado da Ivan Kolik, che ha già lavorato per Typo Negative, Hammerfall, Symphony X. I Moonspell, ricordo, suoneranno qua in Italia il 7 di dicembre al Palo Nord di Bologna. Parliamo dei Poison Black. Il prossimo terzo album in studio della band finlandese creata dall'ex cantante dei Sentenced, Ville Laiala, si intitolerà A Dead Heavy Day e si comporrà di 10 brani più un intro. L'uscita è prevista per il 1° di settembre. Sigels Eden, la band tedesca che vede in formazione i fratelli Oldsvarf, uno è il batterista dei Rhapsody on Fire, mentre l'altro suona il basso come session man nei Blind Guardian. Ed è in uscita lo scorso anno con un album Paramount. Suoneranno in Italia per una data, precisamente il 29 novembre, presso il locale che si chiama Sottotetto a Bologna. Gli Evergrey, la prog power metal band svedese, ha stipulato un contratto con la Steamhammer SPV, etichetta tedesca, che si occuperà di pubblicare il nuovo album. Il titolo sarà Torn e l'uscita è prevista per i 1° di settembre. Andiamo in Finlandia, dove l'album nuovo dei Children of Bodom è arrivato al numero uno nelle classifiche e hanno pubblicato, anzi pubblicheranno il 9 di giugno, un nuovo singolo ed è il brano che apre l'album, Hellhounds on My Trail. Verrà incluso in una confezione 3 brani dal vivo, 2 cover e il video del singolo. Beh, quindi un bel package. Li ascoltiamo, Children of Bodom con il brano Hellhounds on My Trail. alla Finlandia, numero uno nelle charts finlandesi. La critica non l'ha accolto molto bene. Ho visto e ho letto delle recensioni non propriamente valide per questo nuovo lavoro dei Children of Bodom, pubblicato comunque anche in Italia. L'album si intitola Blood Drunk, Hell Bounds on My Trail, il pezzo che abbiamo ascoltato, che sarà il loro nuovo singolo, che verrà pubblicato il 9 di giugno. Un'altra anteprima, un singolo che anticipa il prossimo atteso nuovo album dal titolo Watershed per la band svedese degli Opeth. L'album uscirà il 3 di giugno tramite etichetta Roadrunner Records, a due anni dal precedente Ghost Reveries. Gli Opeth sono una storica e cult metal band svedese, nati nel 1991 dopo che il leader cantante e chitarrista Michael Hackefeld aveva sciolto la precedente band. Viene completata la line-up e nel 95 uscì l'album di debutto dal titolo Orchid, che sorprese pubblico e critica presentando un death metal progressivo. Il nuovo lavoro Watershed è stato registrato in Svezia, prodotto dal leader Michael insieme a Jens Bogren, che ha lavorato già per Hammerfall e Symphony X. L'album si comporrà di 7 brani e, a quanto scrive l'etichetta, combinerà elementi di metal moderno, prog rock, free jazz e cenni di musica folk europea. Presente come special guest in una traccia la cantante folk Natalie Lorik. Per quanto riguarda la line-up, c'è da segnalare l'ingresso di un nuovo chitarrista e di un nuovo batterista. Gli Opeth suoneranno l'11 luglio qua a Milano in occasione dell'Evolution Festival. Li ascoltiamo allora con il singolo Porcelain Heart, del quale è stato anche già proposto, registrato un video. Opeth. grande band, grande gruppo, questi sono gli Opeth, ve li stiamo proponendo per la prima volta questa sera nel nostro spazio di Hard and Heavy con Porcelain Heart, quello che sarà il singolo dal prossimo Watershed, album che verrà pubblicato il 3 di giugno. Chiudiamo con una band italiana, gruppo italiano composto da ben 6 elementi, il loro album d'esordio risale al 2004, si intitolava Step One. Successivamente hanno stipulato un contratto con l'etichetta che arriva proprio dalla Spagna, cioè la Locomotive Records, e hanno chiuso il contratto un mese fa ed ecco subito la pubblicazione di questo Aeon con addirittura la masterizzazione da parte dell'esperto del genere, cioè Tue Madsen. La band suonerà il 17 di maggio al Energy Club di Cesenatico in provincia di Forlì. Si chiamano Figure of Six, dato che sono anche 6 elementi, come dicevo. Il pezzo che andiamo ad ascoltare è quello che apre l'album, The Man with Book and the Gun, e noi chiudiamo con questa canzone di questa band italiana all'appuntamento di questa sera di Hard and Heavy. Come sempre ringrazio Simone Scavo, il mio autore. Io, lui, insieme a Max De Rio e Wilson Hour saremo presenti, lo ricordo, venerdì notte, venerdì di questa settimana, per uno speciale Hard and Heavy Nightmare. Vi ringrazio ancora una volta, vi auguro una buona serata, un buon proseguimento con gli altri appuntamenti di Rock FM. Noi ci ritroveremo domani sera 20:21, sempre qua puntuali. Da Marco Gravelli è tutto, ciao ciao. Mariposa, Corso Lodi numero 1 a Milano, ti ha presentato Rock FM Spot. Wisenake, Good to be Bad, il nuovo disco in studio dei Wisenake di David Coverdale in 10 anni. Wisenake, la più grandiosa hard rock band di tutti i tempi. Nei migliori negozi, distribuito da Audioglobe.